10 Buon pomeriggio, buongiorno e buonanotte, qui è Riccardo Cremone, il programma è Ci sta stretto lo stivale, edito da Radio 2010. Sono in compagnia di Alessio Strazzullo. Buongiorno Alessio, e siamo qui in questo nuovo programma. Prima di incominciare ho bisogno di delucidarvi sulla sigla che avete appena sentito, l'autore Paolo Petrella. Alessio, ho bisogno di illuminarci un attimo su Paolo Petrella. Dici un po', Alessio. Grazie Paolo per aver creato questa magnifica e meravigliosa sigla. Perché Paolo, devi sapere che oltre ad essere un grandissimo musicista ed un grandissimo strumentista, è anche una persona molto molto insicura. Sento puzza di sviolinata. Secondo me sta arrivando una bella sviolinata. Li senti in lontananza. Secondo me stai per dire qualcosa su Paolo Petrella. Paolo, non essere insicuro. La tua sigla, oltre ad esserci piaciuta tantissimo, ha reso questo spettacolo, questa radio, qualcosa di veramente, veramente, veramente professionale. Che qualità. Abbiamo sviolinato, avete sentito Alessio che praticamente ama quest'uomo. Prima di incominciare avevo bisogno anche di presentarvi il nostro regista, il nostro DJ. Vuoi salutarci? Corrado Parisi. Buonasera ragazzi! Come sentite, questo ragazzo pieno di problemi, pieno di ansie. Corrado Parisi è un DJ. Alessio Strazzullo, se vuoi ci puoi dire il suo background, dove l'abbiamo preso, come l'abbiamo trovato, dici un po'. Ma questa storia del DJ, si pronuncia DJ o DJ? Perché ti vedo molto molto molto preparato sulla questione. Io eliminerei questa questione, dico DJ, vale lo stesso. Molto bene. Allora, Corrado Parisi nasce nell'8 marzo del 1985. Un momento, mi dicono che l'8 marzo è anche la festa delle donne. Come si fa a nascere il giorno della festa delle donne, Corrado? Come si fa? In ogni caso, lui da piccolo inizia subito a comprare i primi piatti, i primi amplificatori per esercitarsi in quello che vuole far diventare il suo vero mestiere, cioè il DJ. Vabbè, in verità la vita è questa. Camminavo per Napoli, via Roma, ho trovato un uomo per terra, due cuffie e un piatto che parlava come un invasato. L'abbiamo preso perché noi facciamo anche queste opere di bene. Guardate, vi do la prova della pazzia di quest'uomo. Corrado, che ore sono? Buonasera! Avete visto? Praticamente lui ormai è rimasto all'apertura del... Sogna ancora di aprire serate e continuare a parlare. Diciamo che la verità è che ormai la scena dei locali e dei DJ a Napoli è profondamente cambiata. Prima un tempo questo ragazzo andava veramente fortissimo, soprattutto in quel tempo in cui la vera musica che si ascoltava in discoteca era la musica house, la musica che permetteva a tutti... Scusa Alessio, che musica? La musica house. Ah, avevo capito bene allora. Beh, poi Alessio, vuoi un po' illuminarci come possono raggiungerci i nostri ascoltatori? Certamente. Siamo delle persone veramente, veramente molto multimediali, oltre ad essere una radio molto multimediale. Potete trovarci su www.2010.wordpress.com oppure scriverci una mail su info.2010@gmail.com o addirittura aggiungerci su MSN con live.2010@hotmail.it per scriverci quando noi registriamo o anche in un futuro durante le nostre dirette. In ogni caso il nostro profilo su Facebook potete raggiungerlo appunto con il nick 2010 e lì trovate tutte le novità. Ecco, io ho bisogno di precisare una cosa. Io sul profilo di Facebook non sono d'accordo, Alessio. Mamma mia, che personaggio impopolare. Per me Facebook mi fa cacare. Ma per me Facebook mi fa cacare, oltre a non essere italiano, scusami se ti correggo, perché noi siamo un po' in conflitto, dovete sapere, lui è un po' una persona antipatica, a cui non piacciono queste storie della multimedialità, tutte queste cose. No, io sto dicendo che Facebook è... un grande mezzo, potrebbe essere un grande social network, gente che parla dall'Australia, Cina, Giappone, parliamo con tutte le persone di questo mondo, solo che in Italia siamo incapaci. Facebook è diventato facciamoci i cazzi degli altri, non facciamo altro che farci i cazzi degli altri, taggare foto, siamo ovunque e non va bene ragazzi, perché non è possibile, siamo diventati una banda di cinesi che camminano con le foto digitali, ci tagghiamo ovunque. No, non ho capito molto bene questa questione dei cinesi, che vedo che è anche una questione molto popolare, la gente apprezza questo enorme applauso. Cos'hai contro i cinesi? Non ho niente contro i cinesi, solo che ormai tutti ovunque compare una macchinetta digitale. Siamo ovunque, ristorante, parrucchiere, salumiere, scattano foto e l'unico obiettivo è Facebook. Taggarci. Mi hanno taggato un dito un giorno. È mai possibile che mi taggano un dito, Riccardo Cremona? Potevo anche non essere io. Mi hanno taggato un dito, basta, il tag è diventato lo sport nazionale italiano. E ricordiamo che non solo Riccardo Cremona ha avuto questi problemi, un po' di tempo fa anche Berlusconi fu taggato in una fotografia. Ciò che si vedeva però non credo fosse un dito, credo fosse qualche altra cosa. Queste sono illazioni, però noi facciamo anche questo in questo programma. E vedo che il pubblico si stupisce, però non apprezza, perché sappiamo il pubblico è impopolare come il nostro amico Riccardo Cremona. Grazie Alessio, ti ringrazio molto per questo affetto che tu mi doni. Bene Alessio, in verità tu sei il capoccia, il signor 2010, quindi vorrei tanto che tu ci spiegassi, questo è un pre-air, quindi la gente ha bisogno di sapere cosa andrà ad ascoltare in questi giorni, con questo programma ci sta stretto lo stivale. Allora, quando siamo partiti subito, grazie al nostro DJ, grazie al nostro DJ. Saluto al DJ. Un po' in ritardo. Puoi farmi ripartire di nuovo la marcetta così mi impettisco un poco? Oppure non è possibile. Ah, molto bene. Allora, 2010 è un programma che nasce dalla mia mente assolutamente geniale e dalla mia voglia di fare del bene nell'umanità e soprattutto di poter creare finalmente qualcosa. E nasce una sera qui in questa casa, tra l'altro da cui stiamo trasmettendo, con diversi amici. In ogni caso, questo programma si chiama Mi sta stretto lo stivale ed è appunto un programma d'approfondimento su questioni che riguardano il nostro paese. La vita quotidiana, diciamo. La vita così. Quotidiana dell'Italia, degli italiani che non vorrebbero più essere italiani e degli italiani che non si sentono più italiani. Tu ti senti italiano, Riccardo? Io mi sento italianissimo, non condivido gli altri italiani, dato che hai capito la mia misantopia praticamente, però... Mi sento italiano e voglio essere italiano. Che impopolare, anche perché una volta che Fabrizio Corona dice io non mi sento italiano, tutti dovremmo evitare di sentirci italiani, a mio avviso. Secondo me le parole di Fabrizio Corona vanno pesate, se lui non sente italiano, problemi suoi, felice io di esserlo. E qui ci scatterebbe un grandissimo applauso, apprezziamo tutti quello che ha detto Riccardo, per una volta siamo tutti d'accordo con lui. In ogni caso, a breve, tra qualche giorno, inizieranno le prime puntate, quindi seguiteci insomma su Facebook. Inizieremo con delle puntate appunto su Mi sta stretto lo stivale, avremo anche una sigla che sta preparando per noi un altro grandissimo, grandissimo compositore che è Roberto Porzio. Sento ancora puzza di sviolinate. Sì, questa volta è vero, anche perché Roberto Porzio e Paolo Petrella fanno parte della stessa band musicale, The Ravenous Quartet. Scusami, potresti ripeterlo? The Ravenous Quartet. Quanto sei bello, no? Soprattutto quanto sono poliglotta. Dovresti sentirmi parlare l'inglese. Sono veramente un incredibile poliglotta. Sei un linguista, diciamo così. Sì. Avremo tantissimi personaggi. Non sto qui a raccontarvi il numero di personaggi che avremo. E già tra un poco avremo un personaggio qui in studio. Eh beh ragazzi, un personaggione, cioè, non ci facciamo mancare nulla qui. Io vi dico, aspettate. Vi dico aspettate, perché questo personaggio va veramente veramente ascoltato. Un luminare della nostra nazione, ragazzi, dopo parleremo con lui. Io però vorrei prima, è vero che questo è un pre-air, quindi non dobbiamo parlare di nulla, però mi preme una questione. Cosa ti preme? Mi preme una questione, non vi dico dove, però mi preme una questione. Oggi mentre girovagavo sul nostro palinsesto televisivo andavo sul programma più seguito della domenica. No, io ho già capito a cosa sta puntando il nostro caro Riccardo Cremona. E io direi a questo punto, la radio si dissocia da tutto ciò che stai dicendo, perché siamo una radio paraculo. Questo. E va bene, allora mi prendo tutte le responsabilità. Opinione di me medesimo, Riccardo Cremona, sottoscrivo. Oggi mentre stavo girovagando sul nostro palinsesto televisivo, girovagavo col zapping, sono andato su un programma, Buona Domenica. Già so che cosa stai per dire. Allora, mentre la signorina Barbara D'Urso stava parlando con qualcuno, non era ancora inquadrato, gira la telecamera. Per quanto Barbara D'Urso, comunque massimo rispetto per Massimo Barbara... rispetto per Barbara D'Urso, gira la telecamera. Una bella donna, Molto bella, adesso sì, come no, una bella signora, c'ha le sue attitudini, diciamo così. Mentre stavo lì, gira, e sul trespolo, perché era un trespolo, c'era l'onorevole Brunetta. Chi? Onorevole nome, Brunetta, cognome. Il nostro bellissimo uomo, un bell'uomo, diciamoci la verità, piccolino però bell'uomo. La cosa che mi stupisce guardandolo, Alessio, secondo te che cos'era guardando Brunetta? Cosa mi ha colpito? Ma visto che sei una persona così priva di fantasia, penso all'altezza. Vedi qua caschi, perché io in verità non mi ha colpito l'altezza, ma ha colpito che Brunetta c'ha i piedini. Brunetta ha i piedini. È vero, questa storia dei piedini penso che forse non l'abbiano data nessuno. Brunetta porterà un 22, 23, diciamo così, ha dei piedini minuscoli. Non so come si regga, proprio fisicamente. La geometria insegna che la base deve essere molto più grande dell'altezza. E che lui è così forte che anche la gravità, insomma, non sortisce effetto. Porterà un 22, tra l'altro avete notato, tiene un mocassino bellissimo con chiusura in velcro. Perché lui purtroppo non trova scarpe in giro, le compra da Primigi. L'ho visto stamattina, stava da Primigi qua a Napoli, un 22 dai 16, dai 6 a 12 anni. L'ho Però visto. C'è da dire che comunque con questi piedini l'onorevole Brunetta ha scalato, ha scalato. Mamma mia, Brunetto coi piedini, tic tic tic tic, si è fatto tutte le amministrazioni comunali del nostro bel paese, le ha rase a zero, ha visto gente che non lavorava, le ha fatti lavorare, lui tic tic tic tic, e vedo là a rompere i coglioni. Ora io voglio dire una cosa riguardo al giovane Brunetta. Brunetta è il vero self-made man. Cosa? Il vero self-made man. Cosa? È il vero self-made man. Cioè, niente Obama, no, lui è un uomo che si è fatto da solo. Perché io... Bravissimo il nostro DJ, lo salutiamo. Perché... Ciao! Perché se lui è qui, gli altri sei, dove sono? No, avevamo detto, non tocchiamo l'altezza di Brunetta, che quello è piccolo ma incazzoso, poi non sia mai questa cosa prende il verso giusto, questa storia della radio, poi magari ci sente, poi ci dobbiamo sopportare la storia dei fannulloni. Lasciami dire quello che devo dire. Brunetta è uno dei sette giovani fratelli, famosissimi nel mondo della filmografia, i sette nani. Brunetta sì. Allora, è pericolosa questa storia, è pericolosa. Perché... Lasciamelo dire che sto sviorinando. Ma bisogna, l'ha detto anche Berlusconi, bisogna calmarsi un po'. Non bisogna fare tutte queste storie dell'attacco te, tu attacchi me. Bisogna stare più calmi. Se mi fai arrivare al punto capisci dove voglio arrivare. Allora, Brunetta è un self-made man. Lui era uno dei sette nani, un proletario. Lampada, piccone e piccozza, e andava lì a spaccare le pietre. Faceva anche un buon lavoro. Tutti i giorni a spaccare le pietre. Lunedì spacco le pietre. Lasciamelo dire, come un vero comunista. Bravissimo, spaccava le pietre non con la falce ma col martello e spaccava le pietre. Poi un giorno si sveglia, decide di abbandonare questo mestiere e si lancia nel capitalismo. Come prima spaccava le pietre, ora invece spacca le palle. E bisogna dirlo. Questa volta non c'è stato neanche come per Berlusconi persone che cercavano di fermarlo e dicevano non ti buttare in politica, che la politica è difficile, che la politica non è come guadagnare tanti soldi, la politica non è questo. Però lui non l'ha ascoltato E si è fatto da solo. Anche perché chi se lo faceva, Brunetta? Domandone. Chi se lo faceva? Questa era squalliduccia. Forse ha ragione. Lui comunque ha preso, ha salutato i suoi fratelli e se n'è andato. Ora io ho un paio di scoop riguardo fra i giovani fratelli nani, perché di cognome fanno nani. Allora, prima informazione che voglio dare è uscita su Novella 2000 della Walt Disney. E che ti ricordi quel nano, quello un po' rincoglionito, che non parlava, non capiva mai niente, quello che Biancaneve faceva? Ehi, Mammolo. No, aveva il nome tipo i cani. Non Fidolo, però molto simile. Tipo i cani, come cani. Ah, Cucciolo. Ah, bravissimo, Cucciolo. Rincoglionito Cucciolo. Ora, rincoglionito Cucciolo è morto. È morto Cucciolo, adesso voglio dirtelo. No. È morto Cucciolo. Quanti anni aveva Cucciolo? 12, 13. In verità Cucciolo aveva circa 92 anni. In effetti ricordo qualche piaga, qualche piega di troppo in quel visino, quelle... Cucciolo sembrava uno Sharpei, diciamo la verità. Sembrava vecchio. Infatti i suoi fratelli a un certo punto non ne potevano più. Un vecchio novantenne, demenza senile, cavalcante, non capiva niente, non riusciva a parlare. È andato in Svizzera, la dolce morte l'ha accompagnato e adesso sono solo sei. No, mamma mia, però che ansia questa storia, la dolce morte, la Svizzera. Già la Svizzera a me mi porta l'ansia, cioè un posto... Una ridente cittadina in Svizzera, non diciamo il nome, Svringen, ha portato alla morte Cucciolo. No. Ora ho bisogno di dire uno scoop e mi preme che i nostri ascoltatori ci aiutino. Sono sicuro, da fonti, che i fratelli dell'onorevole Brunetta si sono anche loro buttati in politica. E voi siete tutti quanti invitati a trovare, a riconoscere questi sei nani mancanti all'appello tra i personaggi della politica. Vi aspettiamo con tutte le indicazioni del caso. Parte il gioco Pesca il nano. E ora comunque abbiamo detto che volevamo presentarvi uno dei nostri personaggi, un personaggione, Alessio, un luminare, sei d'accordo con me che sia uno che può, un cervello che non è fuggito dal nostro paese ma viene qui a aiutarci con le sue idee, le sue opinioni, giusto? Sì, non è fuggito perché a dire del vero, è un personaggio un po' sospetto. Non si capisce come mai non se ne sia andato via. Resta comunque, come abbiamo detto, uno degli uomini più potenti d'Italia, più importanti d'Italia. Mi associo. Ebbene, noi adesso tra due minuti cercheremo di telefonare questo personaggio. Il suo nome è Ascanio. Non mi ricordo il cognome, fammi un attimo leggere. Ascanio? Non mi ricordo, regia, come si chiama Ascanio? Un applauso! Ascanio Mummolo. Adesso telefoniamo a Ascanio Mummolo. cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Cent'anni, chi ha seguito una strada, chi ha fatto carriera, chi perde la calma, chi non sembra più lui, chi lamenta un dolore, chi chiede un lavoro, chi torna sui passi, chi ha visto un assist, chi ha preso il diretto, chi canta il pezzetto, na na na na na na na na na na na. Ma il cielo è sempre più blu. E il cielo è sempre più blu, Alessio, giusto? Sempre più blu. Tra l'altro io vorrei chiedere scusa, anzi chiediamo scusa per questa banalità, che però non è una banalità, insomma è il primo prayer, volevamo mettere questa canzone, sì. Sentevamo il bisogno di mettere questa secondo canzone. Secondo me ci stava benissimo. E il cielo è sempre più blu. Insomma. Il cielo è sempre più blu, ragazzi. Niente, è arrivato il momento di presentarvi il nostro primo personaggio, l'abbiamo detto prima, Ascanio Mummolo, adesso andremo a chiamarlo sul cellulare, magari occupato, proviamoci, non è un problema. Io non ho capito molto bene una situazione, cioè questo Ascanio Mummolo che è uno dei più grandi e dei più importanti manager e anche imprenditori, sì. Lui è milanese, è una cosa veramente, cioè io ho letto alcune sue interviste, è veramente una persona che sa il fatto suo, insomma, soprattutto in questo mondo italiano così difficile di adesso, la crisi, bla bla bla, tutto il resto. Non riesco a capire perché questa persona è qui da noi in radio. Beh, in verità abbiamo una verità da svelarvi. Il nostro Ascanio Mummolo ha dei problemini, problemucci, cose spicciole comunque con la giustizia italiana. Ma che genere di problemi? Beh, ha avuto dei problemi e diciamo che è stato incriminato, adesso la procura sta ancora lavorando e siamo ancora in fase di preappello riguardo a un piccolo incidente che è capitato, che ha avuto come protagonista lui e un personaggio, diciamo, un barbone, un clochard. Ma noi sappiamo che cosa è successo oppure non lo diciamo? No, diciamo che non diciamolo perché lasciamo così il dubbio ai nostri spettatori e poi magari comunque dobbiamo rispettare la privacy del nostro personaggio che magari sarà lui a dircelo. Cioè, non, ed in ogni caso siamo molto contenti di averlo qui ospite, perché comunque può darci qualche chiarimento su, su che cosa sta succedendo. E se avrà voglia potrà anche svelarci le sue peripezie nei tribunali italiani. Perfetto, perfetto, perfetto. Facciamo partire questa telefonata, okay, va? Okay. Avanti, facciamo questo numero. Qua e qui. Ecco qua, vediamo se prende. I mezzi sono i nostri. Chissà dov'è, tra l'altro, quindi... Speriamo di non disturbarlo. Vediamo un po' se persona così impegnata. Eccolo, sta chiamando. Vediamo se risponde. Battute sulla giustizia. No, no, mi raccomando, partiamo in sordina, questo è un personaggio importante. Non risponde, forse starà guidando, chi lo sa. Ma... Dai, Ascanio, risponde a questo telefono. Pronto? Pronto, signor Ascanio? È lei? Sì, buonasera. Oh, benvenuto, benvenuto a Mr. Stretto lo Stivale. Sì, ma chi è? Ah, salve. Salve, siamo Riccardo Cremona, Alessio Starzullo da Cizza Stretto lo Stivale. Volevo... Radio 2010. Radio 2010. Sì, lo so chi siete. Salve, signor Momo. Innanzitutto volevo chiederle, le diamo del lei o le diamo del tu? Ma dammi del tu, Pierla, dai. Signor Ascanio, in verità noi siamo già in diretta. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, Ascanio. Un saluto a tutti gli ascoltatori a questo punto. Molto, molto gentile, educato. Bene, noi abbiamo parlato di lei come uno dei più grandi luminari del nostro pianeta. Lo dice Forbes, non è che lo diciamo noi, eh. Forbes. Vabbè, people. Lo leggo ne che parlano, lei, diciamo così. Leggo qua sul Forbes che lei è nominato per il Nobel. Tra l'altro, vabbè, quella è stata una forma, mi hanno voluto mettere, inserire. Però vabbè, a me fa piacere, ovviamente. Però il Nobel è uno dei più grandi premi. C'è anche altra gente che merita questo. L'ha preso Obama, per esempio. Appunto, persone importanti che io stimo. Però non so se io ero pronto. Vabbè, per questo. Lei è molto modesto, andiamo avanti. No, Volevo farle il protagonista, lei stesso deve presentarsi. Chi è Ascanio Mummolo? Ci dica, chi è Ascanio Mummolo? Ma principalmente è un imprenditore, nasce come imprenditore dal niente, diciamo così. Ho iniziato a acquistare 2 o 3 case a Baia Domizia. Ah, Baia Domizia. Sì, è vicino alle vostre parti, perché ho visto che era un luogo balneare. Da lì ho costruito delle strutture che poi sono andate bene, ho una catena di alberghi, Mummoli. Ah, i Mummoli, quante stelle sono questi alberghi? Ma dipende, a secondo del Mummolo, dove si trova, si parte da un minimo di 0.5 stella, diciamo quasi bed and breakfast, e si arriva poi dopo un massimale di 5 stelle. Ah, quindi le prende più fasce di prezzo, quindi. Sì, perché vado incontro alle esigenze di ogni singola persona, perché non tutti si possono permettere il 5 stelle, mettiamocelo così. Ah, ha ragione, questo è però pure per vero. Chi può, ovviamente, si pulisce il culo con la seta, come si dice qui a Milano, no? Purtroppo dobbiamo dirle che con le parole dobbiamo stare un po' attenti. Comunque anche la trasmetteremo in un momento. Comunque va bene così, va bene così. Apprezziamo le persone sanguigne, le persone veraci. Moltissimo, grazie. Apprezziamo la sua sincerità. Noi adesso basta. Facciamo un so che adesso innanzitutto una piccola curiosità. Lei ha detto di conoscere le altre persone che erano diciamo nella lista delle persone che potevano ottenere il Nobel. Barack Obama, lei l'ha conosciuto? Com'è? È come dicono. Ma guardi, di persona è molto grosso, ma d'altronde tutti quelli della sua, non posso dire razza, però le persone... No, etnia, diciamo etnia. La sua etnia, esatto, sono comunque persone grosse rispetto a noi, è molto alto, è una bella figura da vedere, certo, si vede molto bene di notte, però queste sono le mie impressioni. Ma su. Questa è proprio una battuta di bassa categoria, diciamo. Però è un grande uomo. Ma io lo penso veramente, non è una battuta, non è che... Okay, lei dice così, nella notte Barack Obama è poco visibile. Sì. Ah, così, ma non è un giudizio. No, per amor di Dio, è una brava persona, anzi, ha pure lui il Nobel. Quindi, cioè, poi ha vinto lui il Nobel, non lei comunque. No. Però, ricordiamo che Barack Obama lui, che ha vinto il Nobel per la pace, sì, per il 2009. Sì. Ora so che Alessio aveva provato qualche... la sua cerimonia. Però. Lei era lì? Sì, veramente? Sì, com'è stato? Molto bella. Lì, la cerimonia lì a... Sì. Dove si tiene la cerimonia? Lì. Ah, ok. Al Palazzo del Nobel. Bello. Bello, sì. Al Palazzo del Nobel, molto bello. Andiamo avanti. Vedo che sul Nobel siamo un attimo impantanati, come sì, si dice. Mi dispiace, però volevo sapere qualcosa. Lasciamo perdere la questione Nobel. So che tu avevi alcune domande da fare ad Ascanio. Quest'anno, il 2009, è stato un anno molto complicato per l'Italia. Basti pensare a questa, anzi, diciamo gli ultimi 2 o 3 anni. La crisi. Dobbiamo toccare questo argomento importante con una persona come lei che mangia pane, diciamo, vorrei dire pane e soldi, ma diciamo pane ed economia ogni giorno. Che cosa ne pensa della crisi? Ma la crisi è un momento che tocca a tutti noi, da tutti i ceti sociali, quindi ci accomuna un pochettino. Secondo me l'economia deve girare, c'è gente che deve comprare, si deve acquistare, non ci dobbiamo fermare davanti al fatto che abbiamo pochi soldi, mettiamola così, vai. Ah, quindi lei intende che è a favore della perequazione del monopolio statale, cioè i soldi deve girare, la perequazione, presente, no? Guardi, ho fatto gli studi classici, mio figlio sicuro glielo farò studiare, infatti farò scientifico, la perequazione per 6, per 12, ma non so precisamente qual è, però... È una cosa importante, la perequazione si deve studiare, sì. Certo, io ho fatto i classici, quindi non l'ho toccato questo argomento, cioè, faceva poco matematica, mettiamo così. Ah, ok, va benissimo. Vabbè. Adesso hai qualche altra domanda riguardo l'economia, diciamo così? Allora, con un personaggio del genere non si può non parlare di problemi globali, diciamo, del mondo che viviamo. Si parla molto di globalizzazione economica e dei problemi che si hanno con i paesi in via di sviluppo. Già. È una cosa molto importante, è uno dei temi del nostro tempo, va trattato. Cosa ne pensa dei paesi in via di sviluppo e il debito che loro hanno e il debito che noi abbiamo? Cosa ne pensa? Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, col fatto che stiamo nel 2009 non ci sono ancora riusciti a sviluppare, mi dispiace, però si dovrebbero un po' adeguare, sono passati anni. Lei si rende conto, però si renderà conto, visto che tutto quello che abbiamo detto, il Nobel per la pace, che non è un problema che possiamo attribuire a loro, è un problema un po' più complicato. Ci dobbiamo unire per aiutare questo paese in via sviluppo, cioè hanno bisogno anche di noi. Ma dipende, se ce lo chiedono con cortesia può essere che una mano gliela diamo, ma non so, se con l'altra è impegnata a fare altre cose, non so. Di cosa sta parlando lei? Non riesco a seguirla. Cioè, il paese di sviluppo hanno un grande debito verso i paesi più moderni, diciamo così, soprattutto verso l'America. Devono pagare dei debiti per motivo per cui non riescono a svilupparsi. Lei pensa che questo debito, come molte persone dicono, debba essere cancellato o debba essere onorato? Ma secondo me si potrebbe fare un prezzo forfettario a tutti quanti. Secondo me, cioè dare un tetto di spese, tipo che ne so. Cioè, alla romana, diciamo così, però. Alla romana, questa è una bellissima teoria e io credo che questa qua la troveremo scritta da qualche parte, perché ma sicuramente nessuno aveva ancora parlato di prezzo forfettario. Dove si può arrivare partendo dai mummoli? Cioè, lui aveva detto alla romana, diciamo così, ma intendeva che l'ho detto per far capire un po' a tutti. Sì, infatti non abbiamo capito, stiamo solo cercando di spiegare meglio. Lei intende, perché non vuole parlare in termini economici, è chiaro, nostra comunità non sono tutti economisti come lei, ovviamente, lei intende che bisogna creare un prezzo comune a secondo delle esigenze e delle facoltà dei singoli stati, giusto? Lei intende così? Sì, più o meno sì. Ah, va bene. Va bene. Ho un'altra domanda, purtroppo mi preme sempre, oggi la parola del giorno è preme. Preme. Mi preme, niente, abbiamo accennato che lei purtroppo in questo periodo ha delle vicende giudiziali in ballo. So che, diciamo, è tirato in mezzo riguardo una questione di un clochard che, diciamo, che ha preso fuoco nel bel mezzo. Noi con molta cortesia, visto che ci rivolgiamo ad un pubblico molto attento, chiediamo, può spiegarci un po' come è andata sta cosa, senza non la stiamo accusando di niente, noi siamo molto contenti di avere un ospite come lei, però vogliamo fare un po' di chiarezza, visto che è un personaggio un po' particolare. Ma per quanto riguarda questo argomento, se la stanno vedendo comunque i miei avvocati, cioè in mano loro. Io posso solo dire che purtroppo mi sono trovato in mezzo a una situazione che io non, cioè, ho figurato, ma non c'entravo, diciamo così. Ah, quindi lei si dichiara innocente? Ma certamente, ovvio, sono stato una serie di eventi a far sì che quella povera persona ha preso fuoco. Io... anzi, io sono molto vicino a loro. Io ho aperto anche... A loro i crociard, intende? Sì, i crociard. I barboni? Sì, i barboni. Io ho aperto tante case per loro. Li faccio entrare, gli do vitto e alloggio gratis. Quindi sto cercando in tutti i modi di aiutare. Quindi sono state una serie di cose che mi hanno associato, ma... Onestamente i miei avvocati già stanno parlando, quindi fanno tutto il lavoro per me, ma vi assicuro che ne uscirò puliti da questa storia. Questo ci fa molto piacere. Qua abbiamo finito come prima puntata. Sì, va benissimo, siamo molto contenti. Spero ovviamente di poter parlare più spesso con ma lei. Certamente, anche sempre piacere. 2010 è un... una bella radio che ascolto, complimenti. È la prima puntata. cosa ascolta lei? La prima puntata. Mi seguo, questo volevo dire. Su Facebook? Sì, tutte. Sì, anche perché abbiamo fatto un po' di pubblicità. Sì, anche il Boom 2010 l'ho apprezzato molto. Sarebbe auguri dell'ultimo dell'anno, sì. Complimenti. Va bene, quindi credo che possiamo chiudere anche qua la telefonata. Certo, la ringraziamo, grazie. Grazie a Scano. Arrivederci. Ma Alessio, hai visto che belle parole che aveva per noi il nostro Ascanio? Veramente un Massimo. Personaggio. Un personaggio. Massimo, vieni qua, Massimo. Alessio, mi sa che è rimasta aperta la telefonata. Ascanio? No, non ci credo, sembra una gag. Non ci credo. Ascanio. Ma tu hai capito che domande di merda mi hanno fatto quelli? Ti rendi conto, Massimo, vieni qua, Massimo. Senti, mi hanno detto. Allora, punto primo, mi hanno chiesto dell'economia. Ma che cazzo volete da me l'economia? Ma siete tutti dei barboni del cazzo. Io lo sapevo. Allora, Alessio, se tu non vuoi far girare l'economia, non sono problemi miei. Tu rimarrai in mezzo alla strada, Dio cane. Cioè, non è che... Signora Scanio, ma ci sente? Non è che così può... Aspetta, non te ne andare, Massimo, vieni qua, siediti. Allora, mi hanno detto... Poi, dopo l'economia, mi hanno chiesto, senti, l'assurdità, tanto per non cadere, giusto? Cioè, proprio la domanda più banale del mondo. Che cazzo? Mi hanno chiesto del barbone. No, lo sapevo, che c'era qualcosa sotto. Massimo, aspetta, mi hanno chiesto del barbone. No, io non ho detto niente, ci mancherebbe. Però quel barbone di merda doveva essere bruciato. Dio santo, puzzava. Ci rendiamo conto? Io però, io ho detto il fatto delle case, però non gli ho detto che dopo le case gli do fuoco e fingo un incendio. Tutti rendi perché i barboni dovrebbero morire tutti, perché puzzano. Il barbone puzza da morire. Signora Scani, io per colpa loro non posso invitare gente a casa, perché si mettono fuori a quel cazzo di palazzo e mi impuzzolentiscono tutto, capito? Senti, fai una cosa, vai in garage, prendi il SUV, una latta di benzina e andiamo a festeggiare, dai, forza, muoviti, basta, muoviti, dai. Cazzo, lascia il telefono acceso. Dio, pronto? Pronto? Pronto. Signora Scanio. Chi è? Siamo sempre noi, Riccardo Cremona, adesso. Ah, buonasera, non si sente bene. Cadendo, Valeria. Sta vincendo. Ascanio. Ascanio, sentiamo che lei, la sua voce è riconoscibilissima. Non ho parole, ma una persona che ha detto di essere stato a cena con Obama. Ma com'è possibile? Obama la sa questa storia? Pronto? Sì. Allora, non signora Ascanio, ormai sappiamo che lei è al telefono. Dica qualcosa. Si è scaricata la batteria, se adesso cade la linea. Lo sapevate che io vorrei rispondere, però purtroppo non sentiamo più niente. Ma è andato il signor Ascanio. Io sono allibito. In effetti anche a me, diciamo che mi ha lasciato un po' stupito queste dichiarazioni, che parlava con un certo Massimo, sarà un suo amico. Credo che le autorità competenti utilizzerebbero e utilizzeranno questa registrazione. Non ho parole, ma sembrava una persona così educata. Ed è sempre così, non c'è niente da fare, è sempre così. Magari il tribunale comunque, come sappiamo, deciderà la verità. Magari non sarà così, vedremo come continueranno queste sentenze. Noi continueremo comunque a parlare con Ascanio, perché abbiamo visto che comunque ha degli stimoli, ha delle parole importanti, ha delle idee. Speriamo che sia solo un caso, che sia successo oggi così, speriamo. E va bene, speriamo così. E adesso andiamo avanti. Bene, penso che siamo arrivati alla fine, Riccardo. Già. Penso che siamo proprio arrivati alla fine, però questa non è la fine di una puntata, ma l'inizio di un grande sogno che speriamo vada avanti. Certo. E insomma, è il momento dei saluti. Saluti. Ringraziamo Paolo Petrella e Roberto Porcio, i nostri cari musicisti, grazie, autori di musiche, stacchetti e chi più ne ha più ne metta. Poi salutiamo tutti i nostri amici, lo staff di 2010, tutto 2010, che sicuramente ci darà una mano nei prossimi giorni per le altre puntate. Non ci dimentichiamo il nostro mitico in regia, Corrado Parisi. Corrado, buon anno! Un grande Corrado Parisi. Salutiamo l'unico ascoltatore coraggioso che ci ha segnalato, ci ha salutato in diretta mentre noi registravamo, cioè Andrea Melchiorre, un vero coraggioso, il mio dio d'oggi. Poi sì, sarà nominato in tutte le puntate. Ragazzi, la puntata è finita, saremo online il più presto possibile con un altro podcast, con la vera prima puntata, dove affronteremo i problemi